Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Sigla leggermente più lunga perché abbiamo il collegamento telefonico in diretta per un last minute dopo il rientro con il GR di Radio Popolare negli studi di Via Zanardi. Abbiamo con noi per un appuntamento, come ho già detto, lasciato intendere per quanto riguarda anche l'apertura con il brano del buongiorno, a proposito di un incontro in Via Sante Vincenzi 50 per questa sera. E con noi, ok, Zaz, Capitan Catastrofe, intanto diamo il buongiorno al nostro ospite, ben ritrovato. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, ciao, capitano, William. Mio capitano, mi viene da tanto per fare una citazioncina. Esatto, appunto. Allora, perché ho voluto questa conversazione? Intanto per la passione, per portare l'incontro di Via Sante Vincenzi nella rassegna che anticiperemo nel last minute odierno. E poi, insomma, perché vogliamo saperne di più a proposito di incontri su musica demenziale, trash, belle e quant'altro, che è poco presente, mea culpa, mea grandissima culpa al Breakfast Club, per cui questa è un'ottima occasione. È nato così per caso, tu hai scritto mattiniero qualche puntata fa e ho detto perché no, approfittiamone di questo last minute, di questo spazio. Allora Zaz, di che si tratta, dove, come e quando? Innanzitutto saluto anche, non è vero che non c'è demenzialità, perché poco prima che tu vada in onda c'è Giuda Le Brande con Massimo e Berto. Sì, no, no, ho detto del Breakfast Club, Massimo e Berto sono dei giganti. Che salutiamo. Sì. No, niente, abbiamo questa iniziativa, la Dei Giovani, nasce dal 2015 per portare appunto il messaggio della filosofia demenziale, perché alla fine di filosofia si tratta, praticamente anche nei locali e in uno spettacolo, diciamo, itinerante che potesse appunto far conoscere un po' questo genere di umorismo che è, come ripeto, è quasi una filosofia di vita. Sì, assolutamente. E molti eventi che si sono stati fatti sono tesi a fare molto revival, e noi invece proprio cerchiamo di stanare le nuove generazioni o comunque le nuove proposte. Sì, sai che vorrei anche, a proposito di filosofia, prima di addentrarci in un aspetto di informazione di dati, orari e quant'altro, com'è cambiato secondo te questo aspetto nel corso del tempo e degli anni? Quale aspetto? Il demenziale. L'aspetto demenziale. Ah, certo, beh, come ripeto, una volta, forse nel 77, eccetera, poteva avere forse più senso perché c'era un altro tipo di mentalità, c'era un altro tipo di provocazione da fare. Adesso si fa molto più fatica per cercare di portare avanti questo tipo di messaggio, perché non viene capito, viene confuso spesso anche col trash e con altri generi che invece sono tesi sulla risata facile, mentre da noi diciamo che c'è la voglia e l'intento di creare anche un po' di fastidio, un po' di critica. La critica, infatti, adesso poi c'è poco senso dell'umorismo, è molto più stereotipato, mi viene da dire. Comunque onore al merito, soprattutto perché tu hai voluto portare tutto ciò, come mi hai detto, fuori onda con passione, con una grande passione. Sì, io questo cappello hanno risposto in tanti. Sì, vi ricordo che insieme a me in questa avventura l'ho creato insieme a Sbarbo Cavedoni, fondatore che salutiamo che l'Ardo Giovani, cioè soprattutto grazie a lui e alla sua voglia, e quindi veramente grazie. E allora, dove, ho capito che a Via Sante Vincenzi 50, ci puoi dire qualcosa di più? Alle ore 21, no, alle ore direi tu poi più preciso. Sì, alle ore 21, comunque circa sarà quello l'orario. Cosa prevede la serata? Ah, prevede il solito delirio allucinante, una kermesse di cantanti che arrivano da tutta Italia, praticamente maggior parte da Bologna ovviamente, però la maggior parte arrivano anche da Como. Ah. C'è gente che arriva anche da Modena, da Zola Predosa. Persino da Zola Predosa, dai. Persino da Zola Predosa. Quindi direi che è veramente un all-star game. Che sarà strutturato tipo un Sanremo, dove c'è il conduttore che presenta una valletta bizzarra, che non si sa se uomo o donna. Giustamente. E il lancio di verdure o carta igienica finale per premiare, diciamo, il vincitore di questo spettacolo. Bene, quindi l'entusiasmo è tanto, anche perché, come hai detto, la passione è fondamentale per tutto ciò. Scipione Club, ecco, ho trovato il nome, Scipione Club. Scipione Club, che è il centro sociale Scipione dal Ferro. Sì. Poi a seguire c'è anche il DJ set, After Show. Ah certo, i cugini, diciamo, di Internazionale Trash Ribelle, Bracciola, gente varia, che sono molto conosciuti. E c'è anche un'altra new entry, che è il buon vecchio Danilo Masotti. Ah, ok. Degli Umarez, che viene anche lui a suonare con i New Euronia, un altro gruppo storico degli anni 80-90. Io vedo qua dei nomi: Gianmarco Basta, General Banana, Tizio Bononcini, Degne Zazza, Gingerani, Sbarbo and Recover. Sì, perché anche sono da ricovero, ma anche propongono questo nome, gli Ornitorincos. Quelli sono i comaschi. Ah, ok, questi vengono da Como. Beh, perfetto. Allora, Lardo ai Giovani, Demenziale, Scipione Club, dalle ore 21, questa sera, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, a seguire DJ set, After Show con il Trash Ribelle, che ho citato in precedenza, quindi vedi che un'attinenza assolutamente c'è per quanto riguarda Lardo ai Giovani. Oh, io ti ringrazio per la levataccia. Io ringrazio te. Ti ringrazio di cuore per affrontare la telefonata. Ho bevuto un po' di come si chiamano quei super alcolici che non bisognerebbe bere. Pensavo caffè. Ho bevuto un caffè. Si può bere. Ah, ok. Se no, perché rido dall'inizio dell'intervista alla fine. No, ma guarda che la mattina, due dita di. Adesso non sta bene che io lo dica, perché sono un po' compassato, però. Alla mattina due dita di Stravecchio non hanno mai ammazzato nessuno. Mai. No, per me no, almeno. E soprattutto d'inverno non nascondo che, insomma. Per cui questo va ad aggiungersi alla nostra conversazione con un sorriso e un caloroso abbraccio. Ci vediamo, largo l'avanguardia. Ciao, ecco, ciao William. Siete un ciao. Pubblico di puntini, puntini, puntini. Merda! Ciao. Ciao popolo. Ciao. Neanche lo stacco musicale adatto, cioè io con una malcelata invidia, positiva invidia sempre, non è una bella parola invidia, una positiva invidia è quello che mi riguarda nella conversazione con Zazzaroni, Capitan Catastrofe, perché a me manca totalmente, ma lo apprezzo tantissimo tutto ciò che è il trash, il demenziale. È un aspetto che mi appartiene, non lo nascondo, è che a volte faccio un po' fatica ad esprimerlo, per cui chi ha questa capacità ne avrei bisogno un pochettino di essere così più, se vogliamo, ecco, più legato a questi contenuti, ma lo sono fondamentalmente, infatti l'ho portato come last minute nella puntata odierna e lo ribadisco questa sera alle ore 21, una rassegna che è stata portata con grande passione al Scipione Club dalle ore 21 via Sante Vincenzi 50, demenziale, abbiamo questi gruppi di cui ne abbiamo citati qualcuno, l'organizzazione Lardo ai Giovani, a seguire il DJ set After Show con l'Italian Trash Ribelle. Questo è il last minute di oggi, un po' di musica e poi dopo si inizia con la rubrica In Scena, doppio appuntamento che ci porteranno ad Earth Arena del Sole. A seguire avremo un approfondimento un po' in anticipo, ma ci sta, per quanto riguarda l'ITC Teatro di San Lazzaro. A tra poco.